Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo davvero lieti di aver dato il benvenuto a Silvia. In un momento di grandi difficoltà che il Paese sta vivendo, questo è anche un segnale di speranza, di fiducia, del fatto che comunque lo Stato c'è sempre, non si lascia mai distrarre da tutti quelli che sono i suoi compiti su tutti i fronti. Oggi è tornato a parlare il Presidente del Consiglio Conte, l'avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, della liberazione 2 giorni fa di Silvia Romano, la cooperante che era stata rapita appunto ormai 1 anno e mezzo fa in Kenya, che finalmente è stata liberata. Oggi grande entusiasmo nel suo ritorno nel quartiere dove abita a Milano, con applausi, suono di campane, tanti amici che l'aspettavano, anche semplicemente abitanti del quartiere e molti giornalisti. Insomma, l'unica cosa, tutti molto accalcati, ecco, in un momento di grande delicatezza in cui sappiamo che bisogna mantenere il distanziamento, tanto è stato l'entusiasmo e l'interesse, insomma, per il ritorno di Silvia Romano, che diciamo c'è stato questo aspetto poco edificante. Però insomma la felicità e la soddisfazione, avete sentito, di Conte, del governo e dell'Italia, insomma, per questa liberazione e questo ritorno, anche se ci sono state moltissime polemiche, molte critiche pesanti e anche degli insulti. Ne parleremo con un grande inviato di guerra, un grande giornalista, che è Domenico Quirico, della Stampa. Lui a sua volta, vi ricordate, è stato rapito nel 2013. Poi sembra che sia stato raggiunto un accordo proficuo tra il governo, il Presidente del Consiglio Conte e le regioni, che sapete che da tempo, ve l'ho raccontato qui man mano in queste settimane effetto notte, regioni che chiedono di anticipare delle aperture, almeno quelle che hanno contagi più bassi, insomma di andare un pochino più avanti rispetto alle indicazioni del governo. Ne parleremo con il Presidente dell'Emilia Romagna, nonché Presidente della Conferenza delle Regioni, che è Stefano Bonaccini, sarà ospite qui a effetto notte, dovremo raggiungerlo tra poco. E poi molti altri argomenti, naturalmente, fra i quali la Croce Rossa, che da lunedì prossimo, siccome deve fare questi test sierologici su un campione di 150.000 persone in Italia, rappresentanti per fasce d'età, genere e anche collocazione geografica, chiamerà persone, potremmo essere anche noi, insomma, in Italia, e chiede che, anche se naturalmente la richiesta è volontaria da parte della Croce Rossa per fare questi test sierologici, appunto, del sangue, che insomma ci si mostri contenti di farlo, almeno che si approvi questa richiesta, perché si può dare, dice anche l'Istat, un grosso contributo a se stessi e anche agli altri. Ci faremo spiegare bene come avvenga questa cosa. Allora, voi intanto allacciate le cinture, avete sentito un sacco di cose da raccontarvi e poi da approfondire con gli ospiti. Tra poco la sintesi della giornata, per i vostri commenti, le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al numero 349-238-6666, 349-238-6666. I dati dell'epidemia di Covid-19 in Italia: calano ancora i contagi, le terapie intensive sotto quota 1000, i morti sono 179 nelle ultime 24 ore. La fase 2 è l'accordo governo-regioni, dal 18 possibile riapertura, 18 maggio, di ristoranti, bar, parrucchieri, autonomia alle regioni, ma il governo potrà bloccarle. A effetto notte il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Decreto rilancio, i nodi politici sono stati sciolti, annuncia il ministro dell'Economia Gualtieri. Agricoltura e 5 Stelle però bloccano l'accordo sui lavoratori in nero, no al condono e sanatorie, dicono. L'allarme di Federfarma: finite le mascherine e nei negozi non si trovano né alcol né guanti. Test sierologici su 150.000 persone. Da lunedì la Croce Rossa comincerà a chiamare cittadine e cittadini. Il test non è obbligatorio ma consigliato. Silvia Romano è tornata nella sua casa a Milano. Applausi e folla ad attenderla e anche polemiche, ma lei chiede che si rispetti questo momento. Partiamo quindi dai dati quotidiani della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Continua il calo dei contagiati, solo 744 nelle ultime ore. Le terapie intensive scendono sotto quota 1000, non accadeva dal 10 marzo. Leggero aumento delle vittime, più 179 nelle ultime 24 ore, 836 malati in meno di ieri e 1041 guariti in 24 ore. Si lavora quindi intanto al secondo livello della fase 2 in vista della scadenza del 18 maggio. I presidenti di regione, il presidente del Consiglio Conte, il ministro Boccia e il ministro Speranza oggi sono riuniti in videoconferenza per organizzare il piano delle nuove aperture e hanno raggiunto un accordo. Dal 18 maggio sarà possibile la riapertura di ristoranti, bar e parrucchieri. Ci sarà quindi una decisa autonomia delle regioni, ma il governo potrà bloccarle nel caso appunto i contagi dovessero risalire. Ne parleremo comunque con Stefano Bonaccini, vi dicevo, presidente dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni. E sul decreto rilancio del governo sembra siano stati sciolti i nodi politici, come assicura il ministro dell'Economia Gualtieri. Ma non ci sono state querelle politiche, ma semplicemente la ricerca delle soluzioni migliori su questioni che sono oggettivamente molto complesse. Ci sarà una regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori agricoli che è necessaria, è giusta, c'è carenza di manodopera, aiuterà anche a far emergere il lavoro nero. Abbiamo lavorato anche in queste ultime ore per mettere la scuola nelle condizioni di ripartire. Quindi ci saranno 16.000 stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti, in modo da avere complessivamente 32.000 nuovi insegnanti a settembre per aiutare i nostri ragazzi e anche risorse e anche importanti per adeguare le scuole, per le famiglie per ripartire. Ci sarà questo contributo fino a 1.200 euro, non solo per la babysitter, ma che potrà essere anche usato per i centri estivi. E poi Gualtieri ha parlato anche di contributi a fondo perduto, sentiamo. Daremo dei contributi a fondo perduto a tutte le imprese piccole che hanno avuto delle perdite, quindi saranno dei contributi che verranno erogati dall'Agenzia delle Entrate. E inoltre, oltre a questo, elimineremo il saldo a conto dell'IRAP che sarà dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, per anche alleviare la loro situazione in un momento così difficile, aiutarle a ripartire. Poi ci sarà un contributo sugli affitti, un contributo sulle bollette e ci saranno risorse importanti in tanti settori necessari a ripartire. E poi avremo un modo di riparlarne nel corso di questa puntata. Intanto si chiariscono i contorni dell'intervento tramite il MES, il Fondo Salva Stati europeo. In Italia narrative ingannevoli, denuncia il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis. Gli aiuti del meccanismo europeo di stabilità, ossia del Fondo Salva Stati, possono coprire le spese sanitarie legate all'emergenza coronavirus sia nell'anno in corso sia nel 2021. A stabilirlo è il formulario con il quale i paesi dell'Eurozona possono chiedere gli aiuti della nuova linea di credito da sottoscrivere con la Commissione europea. Il documento sostituisce così il vecchio memorandum e prevede che l'unica condizione posta agli Stati membri per accedere al sostegno è l'impegno a usare i fondi per finanziamenti diretti e indiretti su salute, cure e prevenzione riconducibili alla crisi Covid-19. La spesa sanitaria da coprire è fino al 2% del PIL dello Stato che chiede l'aiuto, un tetto che per l'Italia si traduce in circa 37 miliardi di credito. La discussione in Italia sul MES è molto complessa, dice il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ma le condizioni per il sostegno sono molto diverse dal passato, spiega, e non legate alla situazione macroeconomica. E sulle preoccupazioni espresse da partiti di maggioranza e opposizione sul debito con il Fondo Salva Stati, Dombrovskis dice che si tratta di narrative ingannevoli. La sola condizione richiesta per gli aiuti, ripete, è che questi soldi vengano spesi per il coronavirus. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Commissione Europea al lavoro fa sapere su un pacchetto turismo, trasporti e mobilità che possa consentire a tutti di andare in vacanza e con regole sanitarie sicure. Il pacchetto verrà presentato mercoledì. E partiranno da lunedì prossimo le chiamate da parte di volontari operatori della Croce Rossa per selezionare il campione di 150.000 cittadine e cittadini per i test dell'indagine sierologica su Covid-19. Ancora qualche giorno, quindi, per la messa a punto della macchina organizzativa. In totale, si apprende dalla Croce Rossa, verranno effettuate circa 190.000 chiamate per arrivare a garantire il campione fissato di 150.000 persone. Saranno impegnati 550 tra volontari e operatori su base regionale, ci sarà una struttura nazionale di supporto. Partecipare a questo test non è obbligatorio, ma è un bene per se stessi e per l'intera comunità, dice l'Istat. Poi ci faremo spiegare come funziona questa cosa dal segretario generale della Croce Rossa, che sarà ospite qui a Effetto Notte. Ed è di nuovo emergenza su mascherine chirurgiche, quelle a 61 centesimi, IVA compresa, nelle farmacie italiane. Sentiamo il segretario di Federpharma, Roberto Tobia, intervistato oggi da Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Tra sabato e lunedì, quindi oggi, sono stati distribuiti attraverso le nostre aziende della distribuzione intermedia alle farmacie italiane 3 milioni di mascherine, un quantitativo minimo come 3 milioni. È chiaro che con una richiesta così importante che arriva dalla gente, finiscono in poche ore nelle farmacie italiane. Non si hanno in questo momento notizie riguardo i 12 milioni di pezzi di mascherine che dovrebbero arrivare alle nostre farmacie in questa settimana, né tantomeno dei 15 milioni promessi dal commissario per la fase successiva, per le prossime settimane. Credo che il motivo principale per il quale le mascherine non sono disponibili è che il prezzo sia eccessivamente basso. Che io sappia, dalle notizie che giungono per le vie brevi, ad oggi la produzione nazionale non è ancora partita. Il monito dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice: secondo i primi studi sierologici, una percentuale relativamente bassa della popolazione ha gli anticorpi contro il coronavirus, intende popolazione mondiale, il che significa che la maggior parte della popolazione è ancora suscettibile al virus, l'ha detto oggi il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Il regime, intanto, per vedere invece i dati nel mondo, il regime di restrizioni nella città di New York, dal divieto di assembramenti alla chiusura delle attività non essenziali, non finirà prima di giugno, lo ha detto il sindaco Bill de Blasio. Nelle ultime 24 ore le vittime nello stato di New York sono state 161, per la prima volta sotto le 200 da quando c'è stato il picco della pandemia. E oggi è scattata in Francia la fase 2, dopo 55 giorni di lockdown. Il paese, diviso fra zone rosse e verdi, ha provato a ripartire riaprendo aziende, negozi e scuole, ad eccezione di alcuni disagi. In mattinata nella metropolitana di Parigi la giornata si è svolta senza particolari problemi. In Germania il tasso di riproduzione del contagio da coronavirus, cioè R0, è salito ancora lievemente a 1,13, era salito sopra la soglia di sorveglianza del valore 1 nel fine settimana. In Spagna non si è registrata una ripresa della diffusione del coronavirus dopo che i bambini hanno ripreso a uscire a partire dal 26 aprile, scesi a 210 contro i 246 censiti ieri i decessi registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. E per tornare invece alla Cina, la città di Sulan, nella provincia cinese di nord-est di Jilin, che confina con la Corea del Nord, è da ieri in condizioni di rigido lockdown a seguito degli 11 casi di infezione da Covid-19 accertati durante il fine settimana. In base alle norme d'emergenza, solo una persona per famiglia è autorizzata a uscire quotidianamente per acquistare tutti i beni di prima necessità, secondo quanto ha riportato la TV statale CCTV. Sulan è una città che attualmente conta circa 670.000 abitanti. Di nuovo in Italia, con il ritorno a Milano di Silvia Romano, la cooperante rientrata ieri nel nostro paese dopo la liberazione in Somalia, un anno e mezzo dopo il suo sequestro. Lo scroscio della pioggia non copre gli applausi. Applaudono dai balconi e per strada gli abitanti del Casoretto, arrivati per festeggiare il ritorno di Silvia Romano. E lei, la cooperante rapita in Kenya nel 2018, sorride mentre fende la ressa di telecamere. Poi dalla finestra ringrazia con la mano sul cuore. Ora anche la Somalia indaga sul suo sequestro, come fa in Italia il Rosso, anche sulla base dei dettagli forniti dalla stessa ragazza, spiata già nel suo villaggio, conferma il colonnello Marco Rosi. Sicuramente nel villaggio dove lei era saranno passate altre persone che avranno notato il fatto che c'era una ragazza bianca. Silvia racconta di non aver incontrato altri occidentali e di non aver tentato la fuga. Assicura di non aver subito violenze e di essersi avvicinata in modo spontaneo all'Islam, ma sulla sua conversione, come sul ruolo degli 007 turchi nella liberazione e sul pagamento del riscatto, discute la politica. Dal governo serviva un profilo più basso, attacca il leghista Salvini, mentre il ministro degli esteri Di Maio invoca per lei rispetto. Ma tutto questo ora resta fuori dall'appartamento del Casoretto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Terremoto a Roma, oggi brusco risveglio questa mattina per la capitale. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito poco dopo le 5 l'area nord-est della capitale e della sua provincia. Nessun danno per fortuna a cose e persone, solo paura e persone in strada tirate giù dal letto, dalla terra che tremava. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa delle 5.03 di stamattina è avvenuta a una profondità di circa 10 km con epicentro vicinissimo al grande raccordo anulare nei pressi dell'uscita di via Nomentana. Hanno oltre 45.000 anni e sono perciò 2.000 anni più antichi di quanto si pensasse, i resti più antichi dell'Homo sapiens in Europa, che descrivendo anche le interazioni dell'uomo moderno con i cugini di Neanderthal. Pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution and Nature, il risultato si deve a un gruppo internazionale coordinato dall'Istituto tedesco Max Planck per l'antropologia evolutiva e del quale l'Italia fa parte con l'Università di Bologna. Intanto scopriamo di essere ancora più antichi. Per chiudere, sta rientrando sulla Terra in modo incontrollato, così come era previsto, un frammento del razzo vettore cinese Lunga Marcia 5B lanciato lo scorso 5 maggio. Secondo Luciano Anselmo, esperto di detriti spaziali del CNR, il relitto cinese dovrebbe cadere a breve in una fetta del globo compresa tra Australia, Africa e Stati Uniti, mentre l'Europa e l'Italia sarebbero al sicuro dalla caduta di questo pezzo, frammento di razzo. È molto probabile che i detriti finiscano nell'oceano, mentre la possibilità che causi vittime è milioni di volte inferiore a quella del coronavirus, dice l'esperto, e meno male. Bene, direi di lasciarci molto brevemente per ritrovarci tra pochi istanti e cominciare ad affrontare alcuni argomenti in primissimo piano con gli ospiti. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo già tante critiche e polemiche su Silvia Romano. Io direi che per il momento atteniamoci alla cronaca e cerchiamo di capire anche che questa è una ragazza che è stata un anno e mezzo, diciamo, pure in un inferno. Quindi tutto quello che dice, quello che sente in questo momento è inutile giudicarlo, si capirà probabilmente più in là. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante le notizie che avete sentito, come sempre vi ho riassunto nella prima parte della puntata, e adesso, sempre con me Roberto Giordano, cominciamo ad addentrarci in alcuni argomenti, in alcuni temi da approfondire adesso con gli ospiti. Vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, tutti che parlano del presunto riscatto pagato per Silvia Romano, del fatto che poteva rimanere lì, e tutte, insomma, diciamo, le polemiche, le critiche abbastanza facili. Io direi, appunto, per il momento di assicurarle il rispetto per quello che ha vissuto. Una ragazza che è andata a fare la volontaria persino Rampelli dei Fratelli d'Italia, rispetto ad altri magari del centrodestra sono stati molto critici, ha detto che lei è un modello per i giovani italiani. Ora, che lo sia o che non lo sia, comunque per il momento cerchiamo di attenerci a quello che sappiamo che è successo. Ne parleremo con un grande inviato di guerra, che è Domenico Quirico, più tardi. Adesso invece passiamo a un altro tema. Tema molto, molto centrale, che ci riguarda tutti, e con la giornata di oggi sapete che siamo entrati nella seconda settimana della fase 2, quindi settimana 2 della fase 2, con i progressivi allentamenti delle restrizioni e le graduali riaperture. Come sapete però, come vi ho raccontato man mano in questi giorni, diverse regioni premono da settimane sul governo per poter riaprire diverse attività prima dei tempi previsti dall'ultimo DPCM, cioè dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Sul finire della scorsa settimana c'è stata la conferenza delle regioni, come vi ho raccontato qui Effetto Notte, e ne ho parlato con, ricordate, giovedì qui Effetto Notte col Presidente della Liguria Giovanni Toti. Sono emerse da quella riunione delle regioni due richieste precise al governo, che vi riassumo. La prima è che entro l'11 maggio, che però l'11 maggio ormai è passato, le regioni avrebbero voluto riaprire alcuni negozi al dettaglio, e poi dal 18 maggio chiedevano, nella scorsa conferenza delle regioni, chiedevano al governo di poter dal 18 maggio riavere una certa autonomia decisionale per le successive riaperture. Il ministro Boccia, però, degli affari regionali aveva più volte ribadito: dal 18 maggio vediamo come si può ripartire in modo differenziato a seconda dei diversi livelli di contagi nelle differenti regioni. E però alcune regioni avevano già minacciato nei giorni scorsi se non avrebbero ricevuto risposte dal governo, di andare per la propria strada. Oggi però c'è stato l'atteso passo ulteriore nella videoconferenza tra regioni, il presidente del Consiglio Conte, il presidente con il ministro degli affari regionali Boccia e il ministro della salute Speranza. Che cosa è successo? Lo ha twittato Toti, che vi dicevo abbiamo avuto giovedì scorso qui Effetto Notte, presidente della regione Liguria, che ha detto: il premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle regioni nella gestione della fase 2 avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al premier. Dal 18 maggio si potranno quindi, dice, aprire le attività sotto la nostra responsabilità. Zaia, presidente del Veneto, ha detto: se tutto confermato è stato un incontro proficuo, le istanze delle regioni sembra vengano accolte, è una sorta di anticipazione dell'autonomia. Però ne voglio parlare con il presidente della conferenza delle regioni, oltre che presidente della regione Emilia Romagna, che è Stefano Bonaccini, che ringrazio di essere qui ospite. Buonasera Bonaccini. Buonasera. Quindi, Presidente, come ha detto Zaia, è stato un incontro proficuo questo con Conte? Sì, sì, credo che ci sia parecchia soddisfazione da parte di tutte le regioni. Abbiamo appena terminato, è stato un incontro iniziato alle 6:30. Sostanzialmente io mi sono fatto carico, poi sono intervenuti tutti, ma di rappresentare quella che era la nostra richiesta principale, e cioè che passassimo ad una nuova fase, essendo iniziata la fase 2, che vede da un lato il decreto maggio che dovrà mettere oltre 50 miliardi di euro a favore di famiglie, imprese, lavoratori, e ognuno dirà la propria opinione. Ma c'era anche un altro aspetto: noi chiedevamo, se era fase 2, che si superasse la decretazione da parte del governo, che fino ad oggi, come lei ricorderà, in questi mesi, anche giustamente, vedeva di fronte alle attività produttive ed economiche che via via dovevano riaprire o potevano riaprire, essere il governo a decidere quali. Le regioni potevano al limite restringere. Oggi noi chiediamo di passare alla fase ribaltata, e cioè che dal 18 maggio, e il Presidente del Consiglio Conte ha affermato che questa è la volontà del governo, vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma così andrà, che siano le regioni, sulla base A, dell'andamento epidemiologico nel loro territorio, B, dal punto di vista del rispetto dei protocolli d'intesa e delle linee guida che devono far rispettare le condizioni di sicurezza per lavoratori e lavoratrici dei singoli comparti economici, ecco, sono le regioni a decidere cosa e come aprire. È evidente che le prime attività che potrebbero riaprire, se penso alla mia regione, faremo di tutto perché possano riaprire da lunedì prossimo, penso a ristorazione bar, ai negozi al dettaglio, mi auguro anche parrucchieri, estetisti, tatuatori, insomma. Noi attendiamo, e questo ho chiesto come appello al Presidente del Consiglio, bene le sue parole, bene che abbia raccolto l'appello, però ci aspettiamo nel giro di pochissimi giorni le linee guida, i protocolli nazionali, perché è chiaro che se inizia il 18 di maggio la nuova fase non possiamo arrivare a sabato o domenica ad attendere ancora le linee guida. Però devo dire che se tanto mi da tanto, la riunione è stata, come hanno detto Zaia e Toti, molto proficua. E, Presidente Bonaccini, per esempio Toti si è già spinto avanti anche negli scorsi giorni, già oggi ha ribadito la Liguria riapre tutto, anche le spiagge, faremo una prova generale di quest'estate, mentre sappiamo che l'Alto Adige per esempio ha già aperto bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, no? Lei pensa insomma che siano, cioè ognuno, ha detto Boccia, è il momento della responsabilità delle regioni, guardi, cioè ognuno si prende, guardi, la responsabilità a questo punto delle, anche qua mettiamo in fila le cose. Fino ad oggi, al di là di tante parole che ho sentito spesso a sproposito, il 95% delle ordinanze che hanno fatto le 20 regioni italiane sono state tutte giudicate conformi dal governo nazionale. Quindi noi, nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbe bene lo segnalasse un po' di più anche voi, dico voi categoria dei giornalisti, perché ci vuole attenzione a queste cose, erano assolutamente in linea con i decreti del governo. Dunque, di cosa stiamo parlando? Poi c'è stato qualche caso, a mio parere errato, come la decisione della Calabria, che l'ha fatto in buona fede, ma come ha visto il TAR ha fermato quel provvedimento, perché a riprova di quello che ho detto prima, solo la decretazione del governo poteva far aprire attività che erano chiuse. Dopodiché la provincia di Bolzano ha fatto una legge per lo status di specialità che ha, e vediamo se il governo impugna o meno, ma in ogni caso, ripeto, ci siamo mossi nella stragrande maggioranza dei casi, al di là delle dichiarazioni, con atti che sono pienamente conformi all'ordinamento vigente, e adesso ci attendiamo, come abbiamo chiesto, io sono molto contento delle parole del Presidente Conte e dei ministri Bozzi e Speranza, e noi crediamo che alle parole di questa sera corrisponderanno i fatti nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le spiagge, ora noi siamo, si figuri, con l'Emilia Romagna, certo, la Riviera Romagnola, da 45 a 60 milioni di presenze turistiche nella nostra regione, col fatto che Parma, e ringrazio il governo e tutti gli altri miei colleghi che hanno accettato che Parma garantirà Parma 2021 capitale italiana della cultura, e non solo il 2020, perché purtroppo questa stagione per buona parte era andata persa, ma noi abbiamo una costa romagnola che fa oltre 40 milioni di presenze turistiche, il resto è la regione. Presidente Bonaccini, forse abbiamo persa? No, sì, la domenica prossima, sì, sì. Perché perché aprire le spiagge adesso, col rischio che ci fossimo trovati migliaia di persone sulla spiaggia al sole, col rischio di essere vicini con i bar, i ristoranti, gli stabilimenti balneari chiusi, noi l'abbiamo deciso insieme agli stabilimenti balneari, non so se è chiaro. Perché? Perché vogliamo che in queste settimane gli stabilimenti balneari, a cui abbiamo dato 5 milioni di euro a fondo perduto per poter ripartire, e gli abbiamo detto cominciate a fare i lavori per farvi trovare pronti con la vostra creatività e genialità, quando saremo pronti io mi auguro che a breve potranno riaprire le spiagge, così come mi auguro che il turismo e tutto quello che ne consegue possa riaprire, posto che noi in Emilia Romagna nel giro di tra poche ore avremo pronte le linee guida condivise con enti locali, sindacati dei lavoratori e le associazioni degli stabilimenti balneari, dopodiché è evidente che aspettiamo le linee guida nazionali, perché il turismo è il comparto che oggettivamente è più in difficoltà. Perché? Perché è l'unico che non esporta merci, che non portano con sé il virus, ma importa persone, che purtroppo sono quelle che contagiano. Ma io ho fiducia che anche lì ripartiremo e anche la stagione estiva vedrà che sarà, non sarà tutta perduta, anzi. Speriamolo, speriamo tutti, questi lo sa Presidente Bonaccini, no? Che certo. Tutti vogliamo viverci un po' di estate dopo questo periodo così difficile. Senta, comunque è, diciamo, è forse una delle prime volte, non lo so, che tutte le regioni, quindi non solo quelle di centrodestra, sembravano inizialmente no, voler un po' correre oltre, ma tutte le regioni sono trovate d'accordo sull'avere dal 18 maggio un po' di autonomia decisionale nelle varie riaperture. Ma guardi, noi l'abbiamo visto anche qui, è evidente che ognuno cerca il proprio spazio giusto, comprensibile, di visibilità, c'è anche un gioco delle parti politiche. Io da sempre ho chiesto di mettere da parte le differenze geografiche e politiche, perché mai come in questa occasione noi abbiamo bisogno di lavorare insieme tra istituzioni e tra regioni stesse. Lei ricorderà che noi facemmo una prima proposta unitaria per aprire il 4 di maggio, anzi chiedemmo l'anticipo al 27 e fu concesso per le manifatture di interesse internazionale, per i cantieri pubblici e privati, e quella proposta è arrivata in sì dal governo. Questa volta abbiamo fatto questa proposta, certo, avremmo voluto alcuni di noi anche aprire al commercio al dettaglio già da lunedì, dall'11 e quindi da queste ore, però non è stato possibile, ma il fatto che il 18, come abbiamo chiesto, cambi proprio l'impostazione di come il governo approccia alla riapertura del paese, e credo sia davvero giusto e condiviso, io credo che sia un risultato che le regioni possono portare a casa in maniera acquisita insieme, tutte insieme, al di là delle appartenenze appunto politico-geografiche, e ringrazio il governo perché ha voluto ascoltare questa voce e insieme costruiremo la stagione della ripartenza, perché qui c'è davvero da ripartire, da ricostruire dopo questa tragedia. Presidente Bonaccini, vedo una dichiarazione di Iole Santelli, presidente della Calabria, che lei citava prima, dice: il Sud che vive di servizi e non di grandi aziende ha necessità urgente di ripartire, abbiamo necessità di conoscere in tempo le famose linee guida per programmare un apparato vitale come la stagione turistica. Dice: le linee guida non possono essere uniformi, quelle che arriveranno dal governo, che auspicava anche lei, Bonaccini. Intanto che linee guida uniformi servono sul piano nazionale e poi dopo nei vari territori potranno essere affrontate a seconda della peculiarità di quel territorio. Iole dice una cosa giusta quando dice che l'Italia è molto diversa tra sé. Noi qui abbiamo, se io penso alle manifatture, si figuri, tra automotive, ceramica e moda, io ho esultato quando già il 27 aprile addirittura, non solo il 4 maggio, qui hanno potuto tornare al lavoro quasi 500.000 di persone. So bene che manifatture così internazionalizzate non sono presenti, purtroppo per fortuna, in tutto il paese, e quindi ci sono parti d'Italia che vivono di economie che non sono coincidenti. Proprio per questo è giusto avere linee guida complessive che affrontino qualsiasi specifica tematica e poi dopo ognuno le adatterà a ciò che nel proprio territorio succede. E ovviamente, questo lo dico per rispetto dei cittadini e lo dico a me stesso, noi ogni giorno trasferiamo al Ministero della Salute i dati e l'andamento epidemiologico, perché è chiaro che se la curva rimbalzasse è evidente che bisogna stare molto attenti a non trovarci, invece che qui ad esultare perché riapriremo parecchio di ciò che oggi è chiuso, a dover chiudere quello che ancora oggi non è riaperto o addirittura qualcosa che è stato riaperto. Quindi anche qui non diciamo ai cittadini che abbiamo già sconfitto il virus definitivamente. Certo, anche se mi sembra di vedere Bonaccini che dal Ministero della Salute siete stati considerati come regione a basso rischio al momento, anche se all'inizio insomma avete avuto un contraccolpo pesante, guardi, anche voi. Noi siamo stati la seconda regione più colpita. Dopo la Lombardia. Perché? Perché Codogno, il Basso Lodigiano, confine, dove era proprio Piacenza, a un ponte di distanza, pochissimi chilometri dal Piacentino. Lei pensi che quasi la metà dei decessi dell'Emilia Romagna sono nelle province di Piacenza e Parma, che insieme non arrivano a un sesto degli abitanti dell'intera regione. Noi abbiamo fatto alcune cose nel dramma, secondo me, proprio giuste. Quando io una notte presi la decisione, la più dolorosa degli ultimi 5 anni di governo in questa regione, di militarizzare e chiudere e fare zona rossa il comune di Medicina, facendolo di notte per non avvertire prima i cittadini, lo facemmo perché volevamo tutelare loro, ma soprattutto salvaguardare Bologna, capoluogo, e la città metropolitana che con la provincia fa un quarto degli abitanti, più di 1 milione. E devo dire che la storia ci dirà che lì abbiamo fatto una scelta coraggiosa ma proprio giusta. Dopodiché è vero, noi oggi siamo la regione con il più alto numero di guariti in rapporto ai casi attivi, ai contagiati. E quindi insomma abbiamo avuto tanto dolore, lo abbiamo ancora, perché l'unica cosa irreparabile di tutto quello che sono si costruirà e ricostruiremo tutti sono le persone decedute, perché quelle alle loro famiglie e alle loro e alle nostre comunità non gliele ridarà più nessuno. Però noi insomma stiamo lavorando incessantemente e speriamo di poterne uscire tutti insieme, certo, il più serenamente possibile. Sì. Grazie Presidente Stefano Bonaccini. Grazie allora, a voi davvero. Grazie e buon lavoro. Un abbraccio all'Emilia Romagna e vedremo nei prossimi giorni insomma quali saranno allora queste linee guida del governo per le varie regioni, poi da naturalmente adattare alle diverse situazioni, come si diceva. Direi di lasciarci brevemente, c'è Paolo da Fiesole vicino Firenze che dice: Roberta, Silvia Romano invece di essere portata in ospedale per esami vari, considerando la situazione sanitaria mondiale, è stata data alla famiglia invece di sottoporla a interrogatori eccetera, tanto il successo mediatico per Conte Di Maio era già stato ottenuto eccetera eccetera, in realtà è ai domiciliari per 14 giorni, l'avete vista, l'hanno bardata, a parte la tunica che aveva, ma insomma con la mascherina, con guanti, con una specie di scarpe di celofan, e poi interrogatori, e poi tutto fatto naturalmente in sicurezza. Penso che dopo tutto quello che è successo non è che hanno fatto le cose così con leggerezza, e adesso anche lei è in quarantena naturalmente. Direi che possiamo sentirci tra pochi istanti. Sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie a fine giornata le avete qui a Effetto Notte, Roberto Giordano che le raccoglie per voi durante tutto il giorno, e poi insieme agli ospiti, dopo una sintesi della giornata con gli ospiti, scandagliamo alcuni fatti in primo piano. Abbiamo parlato di questo accordo che è stato raggiunto oggi con le regioni da parte del governo, ne parlavamo poco fa con il presidente della Conferenza delle Regioni, nonché presidente della Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del fatto che si è raggiunto questo accordo per cui dal 18 maggio, da lunedì prossimo, le regioni potranno avere più autonomia decisionale per differenziarsi man mano a seconda naturalmente del livello di contagio nelle varie realtà da monitorare costantemente, perché si può partire con ulteriori riaperture, ma ovviamente sempre tenendo un occhio molto vigile sui contagi che non si rialzino. Vedo che molti continuano a scrivere commenti, certamente è un evento grosso, importante questo della liberazione di Silvia Romano, però questo ascoltatore che dice: non è il momento di giudicarla, perché io ho detto non è il momento di giudicarla, vedo insulti, polemiche eccetera, ci atterremo alla cronaca e ne parleremo con un grande giornalista inviato di guerra che ha vissuto sulla sua pelle questa esperienza, che è Domenico Quirico. Dice questo ascoltatore: non è il momento di giudicarla, e quando ne vogliamo parlare? Quando la gente se n'è dimenticata? Dice: se hai paura, cambia mestiere, mi avete deluso, spengo la radio. Cosa voleva? Che la mettessi sul banco degli imputati e dicessi che cosa di Silvia Romano? Non ho capito. A parte ne dobbiamo ancora parlare, ma non capisco davvero quando ne vogliamo giudicare, quando ce ne saremo dimenticati. Io a volte così parole in libertà da parte di qualcuno, meglio che qualcuno spenga la radio. Ecco, se questi sono i pensieri, con naturalmente libertà di critica, di polemica eccetera, però dire che ho paura di fare il mio mestiere perché dico che non è il momento di giudicare una ragazza di 24 anni che è stata un anno e mezzo tra gli uomini peggiori che ci siano sulla terra. Comunque, adesso invece passiamo a uno degli uomini più straordinari, naturalmente, del nostro gruppo, che è Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Grazie, arrossisco nella voce. E lo dico con assoluta convinzione. Caro Alberto, con te invece parliamo delle misure che il governo, visto che abbiamo parlato della fase 2 per le regioni con Stefano Bonaccini, con te voglio parlare del decreto rilancio, cioè delle misure economiche straordinarie che il governo sta cercando di mettere a punto. In realtà questo decreto rilancio si chiamava decreto aprile, ma essendo aprile ormai alle spalle e non essendo diciamo prudente chiamarlo decreto maggio, si chiama decreto rilancio, cioè dovrebbe rilanciare l'economia italiana con questa sorta di manovra economica da 55 miliardi che è stata la più cospicua dal dopoguerra, se non sbaglio, Alberto, no? Sì, esatto, è un provvedimento monstro che nel testo d'ingresso è 440 pagine, 270 e più articoli, tratta temi più svariati che riguardano il mondo dell'economia, un po' come se fosse una manovra di bilancio, e che manovra, visto che poi le ultime erano intorno ai 30 miliardi, qui ne metteranno in campo probabilmente 55. Stiamo parlando dei temi più vari, dal reddito di emergenza che va da 400-800 euro per due mesi per chi ha perso il lavoro e non ha sussistenza, l'addio strutturale alle famose famigerate clausole IVA che mettevano sempre un'ipoteca sul bilancio dell'anno successivo, in quest'anno sarebbero stati altri 23 miliardi da trovare, c'è il famoso super bonus del 110% per l'edilizia, per grandi investimenti nei condomini e nelle ville per rifare completamente le dotazioni energetiche di questi degli immobili dell'Italia, una leva che si aspetta possa mobilitare 6 miliardi di investimenti nell'edilizia. Ci sono le varie proroghe della cassa integrazione che per la verità stanno riservando sorprese perché sono probabilmente molte di più del previsto, e quindi qui c'è un problema di copertura del provvedimento, cioè i tagli delle bollette, rinvii delle scadenze fiscali. E chi più ne ha più ne metta, e più forse c'è anche il taglio all'IVA, perché probabilmente riserverà qualche sorpresa, a dire la verità. E a questo proposito lo farei sentire, visto che hai citato il taglio sull'IRAP, farei sentire il passaggio del Ministro dell'Economia Gualtieri al TG5 stasera. L'eliminazione del saldo a conto dell'IRAP sarà immediato, perché semplicemente non sarà dovuto. Le risorse per il ristoro a fondo perduto saranno erogate dall'Agenzia delle Entrate, contiamo che possano arrivare già dai primi di giugno. E il contributo invece di 600 euro per gli autonomi, che è già stato erogato e che la prima volta ha richiesto un po' di tempo per far partire la procedura, sarà dato in automatico, quindi appena il decreto andrà in Gazzetta Ufficiale, in poche ore o pochi giorni, spero 24-48 ore massimo, i bonifici arriveranno automaticamente a tutti quelli che già hanno avuto i 600 euro. Poi ci sarà una terza erogazione che arriverà a 1000 euro e che arriverà nel mese successivo. Sentito Gualtieri, Alberto, quindi. Sì, volevi dire. Ha solo citato, soprattutto per la parte dell'IRAP, che è quella più delicata, forse ha citato solo il titolo del provvedimento. Poi il diavolo, naturalmente, sarà nei dettagli, anche perché si pensa a una platea ridotta che possa comprendere imprese che hanno da 5 a 250 mila euro di fatturato, quindi sostanzialmente piccole imprese. E che lasciano fuori il grosso di chi poi paga l'IRAP oggi, perché l'IRAP è un gettito di 13,8 miliardi grosso modo, più di 11 sono di società di capitali, cioè medie e grandi imprese, il resto due spiccioli li pagano appunto gli esercizi più piccoli, che sarebbero quelli beneficiari di questo provvedimento. Quindi su quello bisognerà vedere com'è l'assetto finale di questo annuncio del taglio dell'IVA, perché forse è meno entusiasmante come potrebbe sembrare, meno pervasivo perlomeno. Alberto, fra le altre cose, ha detto anche assumeremo 16.000 insegnanti, insomma, come dicevi tu, è un provvedimento monstro, nel senso che dentro c'è veramente di tutto, visto che le difficoltà e le attività, le categorie sono tante, però ci doveva essere un Consiglio dei Ministri che doveva insomma limare, mettere a punto, mi pare che appunto sia ancora slittato per questo blocco che c'è stato da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti dell'accordo che si era raggiunto delicato durante la notte sulla regolarizzazione di braccianti e di collaboratori domestici, no? Di allungare almeno di 6 mesi il loro permesso di soggiorno, però il Movimento 5 Stelle a un certo punto si è messo di traverso e ha detto che in realtà questa cosa non fa altro che una sanatoria e che che anzi dunque è impensabile, ecco, avallare un accordo, stavo leggendo le dichiarazioni, è impensabile avallare un accordo che preveda un condono penale per chi sfrutta il lavoro irregolare nei campi, ammonisce per esempio Sibilia del Movimento 5 Stelle, per cui si sta pensando, per non frenare ulteriormente questo decreto ex aprile, ora decreto rilancio, di stralciare questa parte, di metterla in un provvedimento ad hoc. Alberto? La polemica si è rinvigorita oggi dopo che nella notte sembrava raggiunto un accordo anche tra 5 Stelle, Italia Viva e PD. Sono in gioco 200.000 più o meno immigrati, a seconda delle stime, secondo le stime del Ministero dell'Interno, della Morgese. Ed è in gioco, secondo me, un approccio che voglia essere laico e non ipocrita rispetto a un approccio ideologico, diciamo la verità, perché qui stiamo parlando di 300.000 lavoratori più o meno che esistono già, che già stanno lavorando in modo informale in aziende più o meno borderline, e 160-180.000 sono quelli che abitano le baraccopoli nel mezzogiorno e non solo, e che tutti facciamo finta di non vedere, sostanzialmente gente invisibile. L'idea era quella di cogliere l'occasione del Covid, per così dire, che ha bloccato di fatto l'immigrazione da parte dei paesi dell'est, da dove normalmente vengono, sì, soprattutto dalla Romania, no, braccianti, soprattutto dalla Romania, e sanare e regolarizzare questo tipo di personale che altrimenti rimane manovalanza, criminalità organizzata e quant'altro. C'erano due vie: il lavoratore che chiede il permesso di soggiorno per cercare lavoro e paga un forfè all'INPS e comincia a entrare nel circuito e viene assunto e viene contrattualizzato regolarmente. Dall'altra invece c'è l'azienda che si autodenuncia, dice sì, io ho nel mio organico una serie di lavoratori in nero, pago un forfè di ristoro all'INPS e naturalmente prendo uno scudo che mi toglie dai problemi penali di reati, evidentemente. Però il Movimento 5 Stelle fa l'autodenuncia, questo è evidente. Non è d'accordo, insomma, vediamo nei prossimi giorni se si riesce a trovare su questo un punto di convergenza, altrimenti davvero conviene stralciarlo, perché sennò questo decreto rilancio non rilancia mai l'economia italiana. Ma ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Grazie caro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dove questo ascoltatore dice: se invece di una giovane donna impegnata in aiuti umanitari, Silvia Romano, fosse stato un militare inviato armato in uno stato sovrano in missione di pace, dice, nessuno di questi disgustosi personaggi avrebbe avuto nulla da ridire, sarebbe stato accolto come un eroe dalla solita fanfara retorica nazionalista. Insomma, vari i vostri commenti sulla liberazione di Silvia Romano, di lei appunto dobbiamo avere in questo momento molto, molto rispetto. Giustamente, io prima ho detto non è il momento di giudicarla visto quello che ha vissuto eccetera, un altro ascoltatore ha detto non è mai il momento di giudicarla, non è lei che va giudicata, è chi l'ha rapita e come sono andate le cose. Ovviamente adesso però parliamo di quest'altra cosa molto importante, sempre per la fase 2, quindi fase 2 abbiamo parlato con Bonaccini, presidente della conferenza delle regioni, per questo accordo che sarebbe stato raggiunto per delle riaperture differenziate dal 18 maggio col governo, poi con Alberto Rioli abbiamo parlato del decreto rilancio, dovrebbe rilanciare in questa nuova fase l'economia italiana, e poi che cosa succede invece da un punto di vista sanitario. Per esempio, da lunedì ci saranno le chiamate da parte della Croce Rossa per i test ematici, cioè chiamate da parte di volontari e operatori della Croce Rossa per selezionare il campione di 150.000 tra cittadini e cittadini per i test dell'indagine sierologica su Covid-19. Ne voglio parlare allora naturalmente con Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa italiana. Ronzi, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Quindi lunedì parte questa chiamata e come funzionerà, Ronzi? Sì, l'Istituto Superiore di Sanità insieme all'ISTAT, insieme al Ministero della Salute hanno avviato questo protocollo per questa indagine sulla sieroprevalenza, chiedendo a Croce Rossa Italiana di assicurare la chiamata a questo campione che è stato già selezionato da parte dell'ISTAT di circa 150.000 cittadini distribuiti in tutte le fasce di età e in diversi settori di attività. Quindi la Croce Rossa provvederà a chiamare, inizierà a fare queste chiamate, chiamerà i cittadini chiedendo loro di potersi sottoporre a questa indagine ematica, come giustamente dicevate, per cui un prelievo del sangue che verrà poi analizzato e verranno dati ovviamente risultati anche al cittadino che si è sottoposto e arriveranno ovviamente centralizzati i risultati in termini di banca centrale per riuscire a analizzare questo campione di cittadini. Per capire, Ronzi, quindi questi test, questo campione però di 150.000 persone, che cosa è successo insomma di questa epidemia nel nostro paese? Quanti risultano contagiati, quanti sono stati asintomatici, quanti invece si sono ammalati e sono guariti, chi ha gli anticorpi? Senta, ma queste chiamate ovviamente potrebbe essere chiunque di noi. No? Sì, assolutamente. In verità sono appositamente c'è stata una norma che ha permesso di effettuare queste chiamate, di collegare ovviamente quelli che sono i nomi a dei numeri di telefono per poter contattare questi cittadini che sono stati presi veramente a campione con un sistema fissato dall'Istat, per cui abbiamo persone di qualsiasi età e soprattutto appartenenti a zone geografiche diverse, ma anche a attività commerciali, cosiddetti codici Ateco che ormai abbiamo imparato tutti quanti a conoscere, differenti, proprio per vedere in quanto nella popolazione, cioè quante persone sono state a contatto col virus ed eventualmente hanno sviluppato gli anticorpi. Ronzi, quindi chi è stato scelto per questo campione ancora non lo sa, voi lo chiamerete nei prossimi giorni e l'invito naturalmente è una cosa volontaria, non obbligatoria, però voi dite questo dà un contributo a se stessi perché si sa che cosa è successo, no, a noi rispetto al coronavirus e anche ovviamente agli altri, alla comunità, a tutta la popolazione. Sì, è estremamente importante perché comunque queste persone mettono ovviamente oltre ad avere una risposta sul proprio status, ma soprattutto si mettono a disposizione per poter permettere al sistema paese di capire lo stato dell'epidemia. Ronzi, quindi abbiamo detto da lunedì prossimo e a questo punto ecco, è bene dire di sì perché a tutti noi, ormai tutti alla fine, cioè, credo che non ci sia nessuno che non è interessato ad avere una risposta per quanto riguarda lo stato della propria salute e il rapporto che ha avuto, diciamo così, col coronavirus finora. Bene. Direi che allora si aspetta questa telefonata da lunedì prossimo, quindi c'è ancora una settimana, dopodiché potrà partire finalmente questo test nazionale su un campione di 150.000 persone. Sì, assolutamente. Noi chiameremo dai nostri numeri, con l'operatore si identificherà, questo lo dico, è sempre molto importante perché purtroppo noi sappiamo che quando ci sono queste iniziative c'è sempre qualcuno che può tentare anche di aggirare le persone, per cui noi faremo delle telefonate con i nostri operatori che daranno i loro riferimenti e daranno dei punti dove potranno le persone sottoporsi ai prelievi. Noi stiamo cercando di attivare più punti prelievo possibile per essere vicino alle case dei cittadini. In più, questo è molto importante, il Ministero della Salute insieme a noi ha previsto la possibilità con le regioni di garantire anche il prelievo domiciliare per quelle persone che non possono uscire di casa. Benissimo, grazie e speriamo che tutto vada per il meglio, è un'operazione molto importante questa. Grazie a Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa Italiana. Grazie, buon grazie lavoro allora. Grazie a tutti voi, grazie. Buona serata. Grazie. Queste che state sentendo sono gli applausi e le campane del quartiere di Milano dove è tornata oggi Silvia Romano dopo la liberazione, dopo un anno e mezzo, arrivata oggi a Milano la cooperante milanese di 24 anni rapita in Kenya nel 2018 e dai terroristi islamici di Al-Shabaab è liberata due giorni fa. Ad accogliere però, oltre naturalmente all'entusiasmo dei vicini, degli amici, all'amore della famiglia, al sollievo, alla soddisfazione del governo, alla felicità dell'Italia, anche forti polemiche e critiche, anche insulti sui social. Polemiche e critiche fondamentalmente per due motivi: il presunto riscatto pagato dallo Stato, l'Italia comunque non ha mai detto che non pagherà riscatti, mentre per esempio Gran Bretagna e Stati Uniti sono contro, e la sua dichiarata conversione all'Islam. Durante il colloquio col PM, con la psicologa, conferma di essersi convertita, ha rivelato di chiamarsi Aisha come una delle mogli di Maometto. Ne voglio parlare con Domenico Quirico, che saluto. Buonasera Domenico. Buonasera. Non solo perché è un grande giornalista, una storica firma del quotidiano La Stampa, ma anche un grande inviato di guerra che ha vissuto sulla sua pelle un lungo rapimento nel 2013, 9 aprile 2013, nel scenario terribile di guerra della Siria, liberato poi dopo 5 mesi. Ne è scritto ieri, ne è scritto oggi. Domenico, è una delle cose più forti, più emblematiche che è scritto è che, a proposito di questi terroristi, è detto: non gli basta tenerti in pugno, barattarti per denaro, vogliono la tua resa, la tua anima. Beh sì, la richiesta della conversione, l'offerta della conversione, per essere precisi, è uno dei riti a cui i gruppi fondamentalisti islamici sottopongono i loro sequestrati. Come dire, conquistare un'anima alla vera fede, quella che per loro è l'unica vera fede, è un successo che loro considerano altrettanto grande quanto quello di ottenere, che so, denaro o scambio con altre cose che servono alla loro guerra santa. E questa è una pratica che utilizzano in varie parti del mondo e gruppi di fondamentalisti di diversa natura. Gli unici che non lo fanno è ISIS, perché l'ISIS cerca delle vittime da sacrificare, degli adepti, dei nuovi fedeli, ecco. In più, in questo caso si tratta di una donna prigioniera, e sappiamo, no, nell'ambito del terrorismo islamico le donne che ruolo abbiano, no? Diciamo che hanno la donna teoricamente, diciamo, negli scenari delle formazioni islamiste non esiste. Si tratta di una società totalmente maschile, militarizzata, qualcosa che assomiglia, che so, ai templari medievali piuttosto che all'SS. Poi nell'ipocrisia, nel retropalco della loro cosa, le donne ci sono, e come sono utilizzate come kamikaze, come donne di piacere, le famose povere yazide vendute come schiave sessuali dagli uomini dell'ISIS. Insomma, tutto il peggio che si può pensare, no? Per cui, Domenico, al di là che sia una scelta sua, che possa essere legittima o no, condivisibile o no, tu dici passare tanto tempo in mano a questi uomini così terribili, così efferati, insomma, può sinceramente anche strappare, diciamo, la stessa identità, far scivolare fuori la propria identità per salvarsi dalle persone rapite. Cioè, io ammenterei a queste persone che insultano e insudiciano, sì, che questa persona è come la vita, è una sopravvissuta. La sopravvissuta ad un naufragio di 18 mesi in un luogo così tremendo del mondo, per gli uomini e per la natura, che queste persone non riescono neanche a immaginarselo. Allora, come il naufrago, come Robinson Crusoe, oggi ha la fortuna, l'avventura finalmente, di raccattare i resti del naufragio, quello che ne è rimasto, per ricostruire la nuova vita che deve cominciare. Allora tutto quello che ha fatto, detto, subito all'interno di questi 18 mesi e di quello che farà per uscire da questa dimensione e riprendere la sua vita di prima, appartengono totalmente ed esclusivamente a lei. Sono totalmente d'accordo con te. Noi. Certo, certo. Grazie Domenico Quirico. Grazie, un abbraccio e buon lavoro. Ciao Domenico. Grazie. Ciao. Ciao. Ci risentiamo tra pochissimo.